groups, including Al-Qaeda, are pursuing the materials to build a nuclear weapon, and we know that they have the intent to use one. Gruppi terroristici, incluso Al-Qaeda, cercano materiale per costruire una bomba atomica. Questo poteva sembrare un fatto conosciuto, ma qui lo si sottolinea. La Casa Bianca sa che questo materiale sarà usato per una bomba e che gruppi come Al-Qaeda lo vorranno usare. Un pericolo catastrofico per gli Stati Uniti e per la sicurezza globale. Chi parla è Ben Rhodes, il numero 2 del Consiglio per la Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca, ed ha chiarito che oggi si parlerà soprattutto di pericolo atomico nel senso vero del termine, non di bombe sporche, non di trattati per la non proliferazione, non di altre armi che possono essere costruite con materiale di scarto. Il rischio più grave è quello di avere una bomba atomica in mani poco sicure, in mano ai terroristi. Il rischio sarebbe, dice Rhodes, quello di avere centinaia di migliaia di morti. This is really unprecedented collection of countries who come together to talk about. Gary Samore, lo sherpa che ha organizzato questo vertice per conto di Obama, ci spiega che a Washington oggi arriveranno 47 paesi. In America non capitava da decenni, addirittura dal vertice di San Francisco, ci dice Samore, che ci fosse un consesso di queste proporzioni, e al vertice di San Francisco ci si riunì addirittura per creare le Nazioni Unite. Ci saranno capi di Stato e di Governo, sovrani, presidenti, primi ministri, appunto tutti per affrontare al massimo livello il problema sicurezza. Si tratta di paesi che hanno materiale atomico, perché magari hanno o l'uranio arricchito che serve per alimentare le centrali nucleari, oppure hanno materiale di scarto. Si tratta di paesi che hanno aderito ai trattati. Insieme potranno aiutare a fare un censimento del materiale in circolazione e al suo controllo. Securing nuclear materials, and that really focuses on separated plutonium and highly enriched uranium. Come dicevo, si tratta di catalogare, immagazzinare, controllare soprattutto due materiali, il plutonio e l'uranio altamente arricchito. Sono i due materiali usati per l'esplosivo nucleare. Se riusciremo a controllare, dice Samore, avremo davvero risolto il pericolo che questi materiali cadano in mano a trafficanti, terroristi, gang internazionali. 47 paesi che partecipano a questo vertice rappresentano la comunità mondiale. In tutto questo Barack Obama va avanti, avrà altri incontri bilaterali, e sentiamo sempre da Samore quali saranno. There will be a bilateral with Prime Minister Mohammed Najib Abdul Razak from Malaysia. Uno di questi incontri sarà col primo ministro della Malesia, Abdul Razak. Poco prima di vedere Razak, Obama avrà visto anche Re Abdullah di Giordania, ma con la Malesia, come con la Giordania, Malesia, ricordiamolo, un paese a maggioranza musulmana, Obama vuole mobilitare il mondo islamico attorno all'obiettivo del controllo di questi materiali atomici, con l'idea che l'Iran venga isolato in questo vertice, non soltanto nel contesto occidentale, ma anche in quello islamico. Nella gestione globale che Obama sta cercando di esercitare, questo diventa un obiettivo centrale, con una conseguenza. I think that the Israelis have read out the reasons for which Prime Minister Netanyahu. Ecco, Samore affronta la questione Netanyahu. Il primo ministro israeliano doveva venire, ma poi ha cancellato pochi giorni fa. Perché? Beh, perché l'Egitto e altri paesi arabi, inclusa l'Arabia Saudita, avrebbero chiesto che Netanyahu si impegnasse sul fronte della non proliferazione nucleare, un trattato separato di cui Israele non è firmatario. Gli Stati Uniti hanno detto che di questo non si sarebbe parlato, però dietro le quinte diplomatiche la vicenda si è fatta ovviamente molto imbarazzante. Quindi il primo ministro israeliano ha dato forfè, e questa volta la delegazione israeliana ci sarà, ma sarà molto minore in termini di importanza. Il presidente will have an opportunity to have another bilateral meeting with President Hu Jintao of China. Infine, il bilaterale più importante, fra un paio d'ore qui a Washington, Barack Obama incontrerà il leader cinese Hu Jintao. Ecco, il fatto che Hu sia venuto personalmente a questo vertice, insomma, dà ovviamente un contesto di grande importanza politica e in qualche modo di speranza alla Casa Bianca che poi anche Pechino possa in qualche modo trovare un accordo. Obama parlerà anche di valute, però sappiamo che su questo tema Pechino preferisce muoversi in modo autonomo, non vuole l'influenza degli Stati Uniti. Se dovrà annunciare una rivalutazione dello yuan, lo farà per conto suo nei suoi tempi e al momento giusto, non in questo contesto. Ecco, però, se il presidente americano dovesse ottenere l'adesione della Cina alle sanzioni contro l'Iran, beh, avrà superato un'altra pietra miliare importantissima nella sua agenda di politica estera. Vi ricordo che arriverà fra poche ore anche il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi in rappresentanza dell'Italia. Per noi questo vertice è molto importante perché abbiamo degli importanti programmi di sviluppo nucleare approvati dal governo. Finmeccanica, Enel sono già in uno stadio molto avanzato per progettare e poi costruire centrali nucleari in Italia, e dunque l'Italia farà a questo vertice di Washington la sua parte.